5B. Ascolta e rispondi. Secondo te, Lucia ha ascoltato? No, non ha ascoltato. Secondo te, Marco ha riposato? No, non ha riposato. Secondo te, Gemma ha prenotato? No, non ha prenotato. Secondo te, Lena ha informato tutti? No, non ha informato tutti. Secondo te, Sergio ha suonato bene? No, non ha suonato bene. Secondo te, Olga ha imparato molto? No, non ha imparato molto.